Anche sui referendum, tra marijuana e controllo delle armi. Argini rotti e fiume esondato a Carrara, in Toscana ha recuperato un operaio dato inizialmente per disperso, gente sui tetti, decine di interventi dei vigili del fuoco. Il Papa sulla Sacra Rota, si snelliscano le procedure per l'annullamento delle nozze, si faccia più in fretta e racconta, ho cacciato dal tribunale uno che vendeva sentenze. Attentato a Gerusalemme, un'auto contro i pedoni e c'è una vittima, tornano a salire violenze e tensioni, chiusa di nuovo la spianata delle moschee. In Champions tocca alla Roma, in campo a Monaco questa sera contro il Bayern per cercare di rialzare la testa, la Juventus sorride dopo la vittoria in rimonta di ieri contro l'Olympiacos. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete le potete commentare come sempre al 349-238-6666 via sms dunque, oppure scrivendoci a effettogiorno@radio24.it. In apertura dunque le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che segnano una sconfitta netta per Barack Obama e per i democratici e che consegnano il Senato nelle mani dei repubblicani, che strappano 7 seggi al partito del presidente. Mario Platero da New York, eccoci. Simone, sì, buongiorno Simone. Beh, l'umore, devo dire, qui in America è sobrio, è di grande entusiasmo naturalmente fra i repubblicani, ma è sobrio perché questo voto è un voto di protesta, è un voto che riflette una sfiducia degli americani, una preoccupazione, perché nonostante l'economia vada bene, nonostante l'occupazione sia aumentata, poi alla fine la gente comune fa molta fatica a arrivare alla fine del mese, c'è diseguaglianza, c'è soprattutto la disillusione del fatto che Barack Obama, il presidente degli Yes We Can, il presidente della promessa, il presidente della speranza, e poi in realtà ha cercato di fare il possibile, ma certamente non ha risolto la situazione. Dove potrà rifugiarsi Barack Obama? Sicuramente in politica estera. Per il fine settimana parte per la Cina, per l'Australia, un vertice APEC, e quindi cercherà di operare laddove ha maggiori margini di potere, e per il resto dovrà confrontarsi con i repubblicani, con questa nuova maggioranza, e io credo che alla fine è nell'interesse di entrambi cercare un tentativo di compromesso su alcune tematiche dove si potrà negoziare, per esempio l'immigrazione, per esempio gli accordi commerciali, per esempio alcune riforme, migliorare quella bancaria o quella sanitaria. Certo, la corsa sarà in salita per Obama, ma sarà in salita anche per i repubblicani, perché a questo punto dovranno dimostrare di poter governare e di produrre anche loro dei risultati. Bene, bene, grazie Mario Platero, ti risentiremo alle 13.45 con tutti i dettagli di questo voto in America 24. Ci sono stati anche i voti per una serie di referendum, sentiamo. Oltre a votare per le elezioni di metà mandato, gli americani hanno risposto a 147 referendum. La legalizzazione della cannabis per uso ricreativo passa a Washington DC. Nella capitale americana continua a non essere legale la vendita della sostanza, ma ne diventa possibile il possesso fino a 57 grammi e la coltivazione domestica in piccole quantità, 6 piante al massimo. Sullo stesso tema dicono DC anche l'Oregon e l'Alaska, mentre in Florida non passa l'emendamento per la legalizzazione della marijuana a scopo terapeutico. En plein nei 5 stati chiamati a esprimersi sul tema dell'aumento dei salari minimi, Alaska, Arkansas, Nebraska, South Dakota e Illinois sono favorevoli. Scelta importante per Colorado e North Dakota, dove sono stati bocciati i referendum che puntavano a proibire l'aborto. Con l'obiettivo di frenare l'obesità dilagante, in California vince la decisione di tassare le bibite gassate. Lo Stato di Washington, per garantire un maggiore controllo sulle armi, ha votato a favore del background check universale, ovvero l'obbligo di presentare un documento contenente tutte le informazioni personali al momento di acquistare un'arma da fuoco. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo all'Italia con la situazione delle piogge che ha creato problemi soprattutto a Carrara, argini rotti ed esondazioni, mentre soffre anche la Liguria. Tra un attimo, tra l'altro, ci collegheremo con il sindaco di Carrara. Intanto facciamo un punto generale con Andrea Ferro. Andrea, eccoci. Eccoci Simone, buongiorno. Il fronte perturbato annunciato da giorni sul nord-ovest e, come dicevi, ha sfogato la sua massima intensità nella zona al confine tra Liguria e Toscana, già segnata dalle alluvioni del 2011 e del 2012. Quando era ancora buio, intorno alle 6, il Carione, il torrente che taglia in due Carrara, ha rotto un argine ad Avenza ed è esondato. Alcune persone sono state tratte in salvo per un soffio dai vigili del fuoco. Una donna di 40 anni ha nuotato nella piena riuscendo a rimanere a galla prima di essere raggiunta dai soccorritori. Altre persone sono state recuperate sui tetti delle loro case dove avevano trovato rifugio. Gli sfollati sono decine. In mattinata è esondato il torrente Parmignola, allagamenti anche nella zona di Luni e Ortonovo, al confine con la provincia della Spezia. È in questa area che sale la preoccupazione delegata al livello del Magra. Finora due piene sono state contenute entro gli argini. Ribadisco che la notizia di vittime dispersi circolata nelle prime ore del mattino è stata smentita. Sul resto della Liguria gli acquazzoni sono intermittenti, ma tutti finora di breve durata, e questo ha evitato che i torrenti potessero gonfiarsi fino a superare i livelli di guardia. A Ventimiglia il Roia fa meno paura rispetto a ieri sera, eppure nelle vallate dell'entroterra verso il Piemonte, lo Stura, l'Orba e lo Scrivia sono sotto controllo. Poco fa la Protezione Civile regionale ha confermato lo stato di allerta 2 fino a mezzanotte nel Ponente e sul Levante dal Tiguglio allo Spezzino. Le celle temporalesche restano così in agguato soprattutto nella zona centro-orientale dell'arco ligure. Allagamenti a Cogoleto a causa della mareggiata, a Genova è sempre allerta 1, livello quindi inferiore. In città stamane qualche sottopasso allagato, uno smottamento a Vesima, un'ora fa una palazzina è stata sgomberata a Nervi. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro per questi aggiornamenti. Angelo Andrea Zubani, sindaco di Carrara, buongiorno e benvenuto. Salve, buongiorno a voi. Innanzitutto, com'è la situazione al momento? Ma direi che è ancora molto molto critica. Tra l'altro ha ripreso a piovere in maniera molto abbondante, le previsioni volgono al peggio e abbiamo una situazione ancora di emergenza per quanto riguarda il soccorso alle persone. E cioè? Gli elicotteri hanno appena terminato di portare soccorso a circa 20 persone che si erano rifugiate sui tetti o sui piani alti delle loro abitazioni, e abbiamo ancora decine se non centinaia di persone che ancora sono costrette nei loro appartamenti perché non possono uscire, visti gli allagamenti che ancora ci sono sulle strade e nelle abitazioni. Quindi è una situazione ancora molto molto molto difficile. Stanno arrivando tanti soccorsi che ovviamente sono resi difficoltosi proprio per il fatto di dover utilizzare mezzi anfibi e natanti, e quindi un occhio si guarda adesso a portare i soccorsi e l'altro si guarda al cielo, che non è per niente rassicurante, non è rassicurante in questo momento. Senta, il presidente toscano Rossi ha detto: abbiamo speso 30 milioni di euro per opere che sono state fatte proprio nella vostra zona. In effetti noi non abbiamo né contenziosi aperti sui finanziamenti né appalti sospesi come è successo a Genova, e quel tratto di Piume quindi era un tratto che era già, tra virgolette, è stato messo in sicurezza dopo l'alluvione del 2003. Quindi che cosa è successo, sindaco? Per capirne sicuramente le cause di che cosa è successo, perché lavori fatti così di recente poi hanno dato gli esiti questa mattina così, così drammatici. Quindi adesso pensiamo a tirar via le persone che hanno bisogno, a raccoglierle, alloggiarle. E poi si ragionerà. Credo che tutti debbano sapere e capire che cosa è successo. Grazie Angelo Andrea Zubani, sindaco di Carrara. Cambiamo argomento e parliamo del Papa, perché per una coincidenza in realtà il giorno dopo l'approvazione di un pezzo della riforma della giustizia che contiene anche norme per semplificare le procedure di divorzio, ne parleremo più avanti, il Papa incontra i corsisti della Sacra Rota e anche lui parla di snellimento per i procedimenti di nullità del matrimonio, raccontando anche un esempio di corruzione. Ci racconta tutto in diretta Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Carlo, buongiorno. Allora, che è successo? Sì, buongiorno a voi. Ma il Papa oggi ha dato seguito a quello che era un po' stato affrontato nel sinodo di 20 giorni, finito 20 giorni fa, e cioè le cause di nullità delle nozze, perché ricordiamoci che non sono mai annullamenti, la Chiesa non annulla i matrimoni, li dichiara nulli, diciamo, perché non sono mai esistiti. E ha detto vanno snellite, e soprattutto spesso è stato causa di corruzione, perché ha fatto un caso che accadeva a Buenos Aires, di una persona che si faceva pagare $10,000 per sveltire. Ecco, dice, non solo non devono succedere queste cose, ma dobbiamo far sì, ma qui è stato più, diciamo, possibilista, che siano gratuiti per tutti. Per esempio la CEI in Italia, diciamo così, assiste le persone meno abbienti su questo fronte, ma soprattutto vanno rese snelle, perché sono lunghissime, e quindi c'è proprio questo eccesso di burocrazia, alla fine nulla ha a che fare con la giustizia canonica. Quindi un caso, il Papa su questo ha aperto un fronte enorme, perché poi su questo tema ogni anno sono circa 50.000 le cause che arrivano, diciamo, alle diocesi per rendere nulle le nozze religiose. E quindi, però allo stesso tempo il Papa, questo Papa, diciamo, va un po' in contrasto, almeno apparentemente, con il precedente Papa, che aveva detto nessuna scorciatoia, bisogna essere molto rigorosi. La verità è che evidentemente, diciamo così, ci sono molti temi da affrontare. Anche su questo argomento il Papa dice, questo quello che io penso è che è una tappa questa della riforma complessiva della Chiesa sulla famiglia, che è stata avviata e che ci vorranno un anno o due, ma che questo Papa intende portare avanti. Grazie Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Noi torniamo all'estero per parlare delle tensioni e delle violenze a Gerusalemme. 5 passanti sono stati travolti da un'auto in quello che molti fonti indicano come un possibile attentato palestinese. La persona che era alla guida, che è stato ucciso, sembra che fosse un esponente di Hamas. Di queste 5 persone investite, una è morta. Intanto la spianata delle moschee è tornata ad essere teatro di scontri che hanno coinvolto palestinesi ed ebrei israeliani. Una situazione che ha portato alla decisione di chiudere nuovamente l'area, provvedimento poi revocato nel giro di pochi minuti. Ci colleghiamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, dunque una tensione e violenze che tornano a manifestarsi. Sì, come si vede, come è stato dimostrato anche questa mattina, basta una forma di terrorismo minimalista per rischiare di mettere a ferro e fuoco una città intera. È bastato che un piccolo gruppo di estremisti nazionali religiosi israeliani cercasse di salire sulla spianata del Tempio, dove a loro l'accesso non è consentito, perché un palestinese probabilmente legato ad Hamas salisse su un'automobile e investisse una decina di pedoni per rimettere appunto in discussione la questione di Gerusalemme. Sono due forme di estremismo, anche di terrorismo, molto simili. Il problema è che Gerusalemme non è Gaza, non è il resto della Cisgiordania. Abbiamo visto quest'estate una guerra a Gaza durare quasi un mese e mezzo e non è successo sostanzialmente nulla attorno a Gaza. Se scoppia Gerusalemme, scoppia di nuovo tutta la questione palestinese, e forse il mondo arabo, distratto da problemi molto molto seri e pericolosi anche di più, potrebbe tornare a rigirarsi verso la questione palestinese. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Veniamo alla politica italiana, perché resta alto lo scontro tra l'Italia e Bruxelles dopo lo scambio di battute a distanza tra il Presidente del Consiglio e quello della Commissione europea, ma ci sono anche elementi di politica interna, a partire da un pranzo che si sussurrava questa mattina ci sarebbe stato tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora Simone, diciamo subito che il Premier Matteo Renzi è stretto dalla morsa europea sulla legge di stabilità, e allora prima risponde a Juncker e poi accelera sulle riforme. Questa è un po' la sintesi, no? Perché ricordiamo quanto è successo a Ballarò ieri: ha chiesto rispetto per l'Italia e gli italiani, vuole che il Jobs Act sia approvato entro il 1 gennaio, e anche per quella data la legge elettorale. Tenta quindi una nuova accelerazione sull'Italicum, convoca Palazzo Chigi, capogruppo PD, Zanda e Speranza, insieme a Matteo Orfini, Lorenzo Guerini, altri vertici del PD e anche il ministro delle riforme Maria Elena Boschi. E poi al termine del vertice ci dovrebbe essere, come hai annunciato tu, un nuovo incontro con Silvio Berlusconi per mettere appunto le modifiche della legge elettorale. Si parla di un innalzamento delle soglie di sbarramento per ottenere il premio di maggioranza al 40%, così da assegnare alla lista vincente 350 seggi. È quindi una messa a punto del patto del Nazareno, che ricordiamo però in questo momento per Renzi è sempre molto critico perché è indigesto alla minoranza Dem. Altro appuntamento è quello con la segreteria domani mattina, un appuntamento sempre settimanale. Prima però ci sarà un altro passaggio in TV e sarà quello delle Iene questa sera. C'è il rischio di sovraesposizione mediatica, ma il momento a quanto pare per il Premier è difficile. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, una notizia appena battuta dalle agenzie. Funzionari della Consob e militari del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno avviato questa mattina a Milano e Bergamo un'ispezione nelle sedi di Italcementi e Italmobiliare, società entrambe presiedute da Giampiero Pesenti. L'ipotesi dell'esame di Consob e Guardia di Finanza è insider trading. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, il calcio. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. La Roma tenta, insomma, non dico il riscatto, ma di rialzare la testa, e la Juventus sorride. Sì, era importantissima per la Juventus. Per la Roma questa sera conta fare una buona figura. Certamente se si porta via il risultato al campo del Bayern Monaco meglio, però non è questa la gara che può determinare i destini della Roma in Champions League. Era invece la gara che poteva contare tantissimo per la Juventus e si era messa davvero male, come sappiamo, con l'Olympiacos a Torino. Juventus sotto 2-1 a un certo punto è riuscita a rialzare la testa e a vincere questa partita 3-2, addirittura nei minuti di recupero ha avuto la possibilità di superare in classifica virtualmente i greci, che avevano vinto 1-0 all'andata con un rigore che però Vidal ha sbagliato. Dunque 3-2 per la Juventus. Adesso Juve che deve vincere in Svezia a Malmo e poi avrà l'ultima in casa contro un Atletico Madrid presumibilmente già qualificato. Giochi ancora da fare e da chiudere per la Juventus. La Roma, ripetiamo, stasera deve quantomeno evitare un'altra brutta figura. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Torna a parlare Juncker dopo le tensioni di ieri con Renzi e lo ha fatto poco fa. Non accetterò mai critiche ingiustificate, dice. Anche il Senato in mano repubblicana per il presidente americano Obama. Si aprono due anni molto difficili. Argini rotti e fiume esondato a Carrara. Ha recuperato un operaio dato inizialmente per disperso. Ci sarebbero tra le decine e le centinaia di persone ancora bloccate negli appartamenti. Stanno intervenendo gli elicotteri. Il Papa sulla Sacra Rota. Si snelliscano le procedure per l'annullamento delle nozze, si faccia più in fretta. La Guardia di Finanza e la Consob in corso una perquisizione nelle sedi di Italcementi e Italmobiliare, c'è l'ipotesi di insider trading. E adesso parliamo di noi, parliamo della radio in genere, non solo di Radio 24, perché a volte vi capiterà di sentirci con qualche interferenza, con qualche problema di ricezione. È un problema che si sta tentando di risolvere per tutte le radio con la radio digitale. Ebbene, a Roma si sta svolgendo il convegno mondiale su questo tema e c'è là il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hai detto bene, finalmente parliamo anche un po' della radio. La radio sta facendo grandi sforzi per diventare digitale, un po' come è successo per il digitale terrestre per la televisione. Diciamo subito che ancora non è previsto nessun spegnimento dell'FM, quindi chi ci ascolta in FM continuerà a farlo ancora per molto tempo, però diciamo che il fatto che ci sia un congresso mondiale a Roma premia gli sforzi che tutte le radio, devo dire soprattutto le private, un po' meno la RAI che tentenna ancora un pochettino, stanno facendo per digitalizzare. Oggi più del 60% della popolazione è già coperta dai segnali, quindi adesso mentre stiamo parlando io e te, molti ascoltatori ci stanno già ascoltando con la digital radio, quindi la radio digitale in automobile soprattutto. Sì. Prego, prego Enrico. Allora, diciamo subito che è coperta una zona che va, potremmo dire, da Torino fino a quasi Trieste, quindi tutta la pianura padana al nord, e poi ci spostiamo da Bolzano fino a Roma, quindi insomma la copertura è già molto interessante. Ci sono anche canali aggiuntivi, sì, rispetto a quelli che si sentono in FM, quindi ai normali canali in FM. Di questo abbiamo parlato questa mattina anche con il sottosegretario alle comunicazioni Giacomelli, che ci ha detto il problema per andare definitivamente verso il digitale radiofonico è sostanzialmente mettere a posto tutte le frequenze nazionali, comprese quelle del televisive, perché ancora lì ci sono un po' di problemi, e sentiamo quello che ci ha detto. Noi veniamo da anni di Far West. Nessuna delle nostre frequenze è riconosciuta a Ginevra, quindi vogliamo, uno, riordinare la gestione dello spettro, due, favorire compiutamente l'avvento del digitale anche nella radiofonia, far ritrovare anche dal servizio pubblico un ruolo di traino anche nell'innovazione tecnologica. Non ho difficoltà a dire che gli operatori privati che in questo periodo hanno spinto in questa direzione hanno svolto una funzione di interesse collettivo. E quindi lei dice la RAI dovrebbe investire di più sulla radio digitale, cosa che sta facendo con molta titubanza. Diciamo, la RAI ha investito molto nell'innovazione tecnologica. Io penso sia arrivato il momento in cui debba concentrarsi in questa direzione, esattamente sull'aspetto della radiofonia. Promuoveremo per questo a marzo anche un confronto, come si dice oggi, multi-stakeholder in ordine alla gestione dello spettro, ma soprattutto perché finalmente si possa parlare del pieno avvento del digitale nella radio. Grazie al nostro Enrico Pagliarini, saluto un altro esponente del governo, il sottosegretario con delega alle politiche comunitarie, Sandro Gozi, benvenuto e bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. È tornato a parlare pochi istanti fa il Presidente della Commissione Europea, Juncker, dice non accetterò mai critiche ingiustificate e si riferisce esplicitamente alle parole del Presidente del Consiglio Renzi, critiche ingiustificate quelle di Renzi dei giorni scorsi, Gozzi? Ma il Presidente Juncker ha detto che lo stesso Presidente Barroso, suo predecessore, se avesse ascoltato i suggerimenti dei tecnocrati avrebbe adottato un'altra decisione rispetto all'Italia. Ecco, noi chiediamo a Juncker allora di fare come Barroso, cioè di esercitare un ruolo politico, perché il Presidente della Commissione è una figura politica, perché la Commissione deve in realtà ritrovare quel ruolo politico che ha perso, e che valuti questioni gravi come le crisi economiche e sociali di tutta la zona euro, non in base ad astrusi parametri finanziari prodotti da comitati e sottocomitati, ma in base alle decisioni forti di politica economica. Se fa questo, noi saremo ben contenti di dire che la Commissione Juncker e il suo Presidente hanno riacquisito quel ruolo politico che secondo noi spetta la Commissione, che la Commissione ha volontariamente perso in questo ultimo decennio. Le dico, Gozzi, sono flash di agenzia, quindi le riferisco quel che leggo. Cerchiamo di non sabotare la Commissione prima che inizi a lavorare. Insomma, mi sembra l'abbia presa piuttosto male comunque il Presidente della Commissione. Ci sorprende, perché qualcuno che è negli affari europei da 18 anni come Jean-Claude Juncker dovrebbe essere anche abituato al dibattito, ed è bene che ci sia questo dibattito. E quando dovremmo farlo il dibattito sul ruolo politico della Commissione, se non all'inizio del suo mandato? Poi del resto ieri è stato il Presidente Juncker a aprire il dibattito sui rapporti tra politica e tecnocrazia in Europa, e noi abbiamo ribadito che a nostro modo di vedere la tecnocrazia è certamente utile, i funzionari a Bruxelles sono in generale di notevole competenza, ma che le decisioni non si fanno in base ad una logica aritmetica, ma si fanno in base ad una logica di impegni politici e di obiettivi comuni. Grazie. Così vogliamo che le leggi di stabilità vengano valutate. Grazie Sandro Gozzi, responsabile delle politiche europee, sottosegretario con delega agli affari comunitari del governo Renzi. Oggi c'è un altro appuntamento politico importante ed è la fiducia al ministro dell'Interno. A meno di un anno e mezzo da quella sul caso Shalabayeva, il Parlamento vota una nuova mozione di sfiducia nei confronti di Angelino Alfano. A presentarla a Montecitorio questa volta sono stati SEL, Movimento 5 Stelle e Lega Nord, che attaccano il ministro dell'Interno per gli incidenti avvenuti la scorsa settimana fra polizia e operai delle acciaierie di Terni, e in particolare per la ricostruzione riferita alle camere d'Alfano e poi smentita da nuovi video. Il voto è in programma nel pomeriggio. Per il titolare del Viminale non dovrebbero esserci sorprese, visto che Forza Italia ha fatto sapere che voterà contro la sfiducia. Il premier Renzi ieri ha ribadito che sul caso sono in corso accertamenti e ha assicurato che il governo non ha mai ordinato di manganellare gli operai. In queste ore però la vicenda sta alimentando qualche malumore anche all'interno del suo partito. Dalla sinistra Dem c'è infatti chi chiede ad Alfano di individuare e rimuovere i responsabili di quanto accaduto. Il più esplicito è Antonio Boccuzzi. Se dal ministro non arriveranno novità, per me sarà difficile votargli la fiducia, fa sapere l'ex operaio della Thyssen, unico sopravvissuto a Rogo di Torino, oggi deputato del PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Anna Maria Bernardini De Pace, matrimonialista, iscritta alla Lega Italiana per il Divorzio Breve, tra l'altro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno, grazie, bentrovati. Allora, parliamo del decreto legge che insomma è stato approvato ieri dal Parlamento e che contiene anche le norme sul cosiddetto divorzio facile. Le chiediamo innanzitutto di aiutarci a fare un po' di chiarezza, sì, Bernardini infatti. De Pace, anche se devo dire la verità, l'abbiamo già fatto con uno dei proponenti nelle settimane scorse. Questo non è il divorzio breve, è semplicemente una facilitazione procedurale in caso di separazione consensuale, no? Dunque, allora c'è un macello che stanno facendo tutti, che invece di stare in trincea a vedere quello che succede tutti i giorni nei tribunali e negli studi degli avvocati, fanno delle affermazioni di principio sul breve, sul veloce, sul semplice, sul facile. Ci si è messo anche il Papa stamattina a dire fate veloci le pratiche di annullamento, come se ci fosse una competizione tra stati, perché lo Stato Vaticano è uno Stato diverso dallo Stato italiano, su chi interrompe più rapidamente la vita delle coppie. Non trova che sia una specie di Cambogia, sì, del diritto, del programma, della vita, dei sentimenti, di tutto? E quelli che dovrebbero capire sono gli avvocati, che poi si trovano a ricevere subissati di telefonate: la Camera ha approvato, allora noi il divorzio lo possiamo fare subito? A parte che non è stato ancora approvato, c'è stato un ulteriore passo, ma manca ancora giovedì, non è stato convertito, sì, questo decreto, quindi aspettiamo, siamo abituati coi politici che ogni giorno cambiano idea, cambiano, ecco, programma, però posto che però insomma passata la fiducia il voto sul decreto è quasi una formalità, quindi a breve entrerà in vigore, queste nuove norme appunto in realtà non accorciano i tempi salvo dal punto di vista di eventualmente delle procedure, per così dire, della necessità di non andare dal giudice. L'unico problema risolto è quello che bisogna spiegare alle persone come avviene, perché chi non si è ancora separato non lo sa. Fai il ricorso dall'avvocato, poi il ricorso, stiamo parlando del ricorso consensuale, quindi le parti si sono già messe d'accordo con uno o due avvocati, poi questo ricorso finora si doveva depositare in cancelleria e aspettare che il presidente fissasse un'udienza. A seconda dei tribunali potevano passare 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi per andare davanti al presidente e confermare la volontà di separarsi. Dopodiché si doveva aspettare ancora 1 o 2 mesi per avere l'omologazione e in mano il titolo esecutivo della separazione consensuale. Che cosa succede con questa nuova legge, se passa, se viene giurata, eccetera, eccetera? Che tutto si fa dall'avvocato o dagli avvocati senza necessità di aspettare i mesi per la comparizione in tribunale davanti al presidente. E questo è l'unico accorciamento dei tempi che arriva da questo decreto appunto sulla giustizia civile. In realtà le chiedo veramente 20 secondi, appunto questo non è il divorzio breve, perché in realtà c'è un altro progetto di legge presentato in Parlamento. Fermato, approvato dalla Camera, approvato dal Senato, poi bloccato, che invece è quello che si deve fare, ma secondo me sarà la solita mediazione, che si deve fare meglio. In uno Stato laico come lo Stato italiano ci deve essere la possibilità di fare il divorzio senza passare attraverso la separazione, perché adesso diventa ridicolo che uno deve aspettare 6 mesi per il divorzio dopo la separazione o 1 anno per il divorzio dopo la separazione, quando può scegliere, come in tutti i paesi civili d'Europa, se separarsi o divorziare. E poi magari divorziare nel futuro e separarsi prima, ma deve essere una scelta. I cittadini non sono burattini, hanno l'intelligenza e la volontà da poter esprimere. Grazie ad Anna Maria Bernardini De Pace, matrimonialista, tra l'altro iscritta alla Lega Italiana per il Divorzio Breve. Come si diceva, pausa e poi la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Torna a parlare il presidente della Commissione europea, Juncker. Non accetterò critiche ingiustificate. Anche il Senato in mano repubblicana per il presidente americano Obama. Si aprono due anni difficili. Argini rotti e fiume esondato a Carrara. Gente sui tetti, decine di interventi dei vigili del fuoco. Tentato a Gerusalemme, un'auto contro i pedoni e c'è una vittima. Guardia di finanza e Consob nelle sedi di Italcementi e Italmobiliare. Ipotesi di insider trading. La borsa. Borse in diretta. Ottima giornata con un più 2,13% per il FTSE MIB, un più 1,96% per il FTSE OCER, positive anche le altre piazze finanziarie europee. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. E a cosa dobbiamo questo andamento? Ma è una seduta sostanzialmente di rimbalzo oggi per le borse del vecchio continente, che sono state penalizzate molto ieri dal calo del petrolio e dal taglio delle stime sulla crescita della zona euro da parte della Commissione europea. I trader sottolineano comunque che resta un quadro abbastanza precario, c'è inoltre cautela in vista della riunione della Banca Centrale Europea di domani. Oggi comunque prevalgono gli acquisti dopo appunto le perdite di ieri, particolarmente forti a Milano sul comparto bancario. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core e a Isabella Tasso. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La polizia pakistana ha arrestato oggi 44 sospetti per l'uccisione di una coppia cristiana che è stata bruciata viva perché accusata di blasfemia. Una storia che trovate anche sui giornali di oggi, la storia di cronaca, non gli arresti naturalmente. Saluto Marta Petrosillo, che è portavoce della Pontificia Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, appunto una fondazione legata al Vaticano, e che ieri ha presentato proprio un rapporto sulla libertà religiosa. Petrosillo, benvenuta. Buongiorno. Allora, le vorrei chiedere soprattutto della situazione del Pakistan, naturalmente, a questo punto. Certamente, quest'ultimo drammatico evento ci spiega quanto realmente sia facile in Pakistan essere accusati di blasfemia. C'è una legge nel paese, la cosiddetta legge anti-blasfemia, che corrisponde ad alcuni articoli del codice penale pakistano, condanna all'ergastolo chiunque profani il Corano, e con la condanna a morte, come abbiamo visto nel caso di Asia Bibi, chi è accusato di aver insultato il profeta Maometto. È molto semplice venire accusati, perché basta, chi accusa non deve necessariamente fornire delle prove, e soprattutto, come ci dimostra questo caso, le accuse di blasfemia creano veramente una pressione sociale incredibile. Ad esempio, tutto è nato in questa occasione dal fatto che la donna, che tra l'altro ricordiamo era anche incinta, pulendo la casa del padre ha bruciato dei fogli di carta. Un vicino musulmano è passato e ha pensato, oppure diciamo colpevolmente accusato la donna di aver bruciato dei versetti del Corano. Versetti del Corano che in Pakistan si trovano facilmente sulle riviste, sui giornali, e essendo scritti in arabo sono compresi solamente dal 5% della popolazione. Quindi è sia facile per qualcuno bruciare inavvertitamente versetti del Corano, che è molto difficile per l'accusato, per chi accusa, essere realmente convinto e realmente consapevole che quelli siano dei versetti del Corano. Allora, Marta Petrosillo, io la ringrazio per questi chiarimenti, portavoce della Pontificia Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, e la ringrazio anche per aver ricordato il caso di Asia Bibi, del quale tantissimo ci siamo occupati, la donna accusata di blasfemia e che è stata esattamente ieri o l'altro ieri condannata definitivamente alla pena di morte, un caso sul quale torneremo. Grazie Marta Petrosillo, buona giornata. In studio con me invece Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Simone. Con te per parlare della vicenda delle case popolari abbiamo ospitato proprio a quest'ora, due giorni fa, Gian Valerio Lombardi, ex prefetto di Milano e attuale presidente dell'ALER. Tu oggi sei andata a fare un giro nella situazione delle case popolari occupate di Milano. Ci racconti un po' che cosa hai trovato? Intanto oggi le ultime occupazioni sono state questa notte in via Ovada a Milano, e ci sono stati degli altri tentativi in altri palazzoni della periferia sud di Milano. Ho trovato una battaglia per la casa che prosegue, che in questo momento sta diventando combinando una battaglia, possiamo dire, tra vecchi e nuovi abusivi, tra gli abusivi storici e gli ultimi arrivati, i primi spesso italiani, gli ultimi per lo più stranieri, molto spesso rom, in mezzo a tanti inquilini regolari. Via Giambellino, via Gentile Bellini, piazza Tirana, porte murate, persiane sbarrate su facciate dall'intonaco sbrecciato. Sono questi i segnali delle case chiuse e vuote da troppo tempo all'interno di grossi cortili con i balconi, dove possiamo dire ho visto fiorire più le parabole che le piante. In questo contesto, diciamo, le occupazioni avvengono ed è molto difficile riuscire a parlare anche con chi abita all'interno di questi palazzi, proprio perché molti sono abusivi storici. Parlano quelli che invece sono regolari e che anzi ben volentieri hanno aperto anche le porte di queste case spesso fatiscenti, per cui c'è un problema di affitto di case vuote e c'è un problema di gestione delle case regolari sotto la grande ombra di un racket che talvolta cambia da zona a zona, talvolta è opera di stranieri, talvolta anche con la presenza di italiani. Sentiamo allora un po' le dinamiche che ci hanno raccontato, che mi hanno raccontato in queste case che ho visto. Noi c'è una specie di guardia tra di noi che ci facciamo. Come vi organizzate? E come ci organizziamo? Qualsiasi rumore, o io o lei esce fuori, o il signore che abita su esce fuori. Avete trovato la finestra forzata? Aperta. Sì, aperta. Aperta con tutta la roba a soqquadro, perché tanto siamo delle case popolari, cioè vengono a rubare cose che non abbiamo nulla da rubare. Vieni da noi, le faccio vedere, hanno murato una porta che sono lì praticamente da 3 anni. Sono 3 anni che non affittano. Hanno già provato ad aprirla, questa qua, la nostra. Questo è stato un rumore, un casino infernale, abbiamo chiamato la polizia, sono venuti, li hanno sbattuti fuori, però l'ALER non affitta. Quest'estate sono venuti a chiedere informazioni alla portinaia su quali erano gli appartamenti vuoti. Chi è venuto a chiederle? Due signori. Sa dirmi più o meno di che nazionalità? Allora, uno italiano sicuro e l'altro sarà stato dalle parti egiziane o Marocco. Sono passato abusivo anch'io, qua io non ho mai sfondato, ho pagato per entrare. A chi ha pagato? A quella che c'era prima, gli ho dato un affitto, ho pagato dei soldi. Ma questa è una casa popolare, non era una casa privata? Lo so tesoro, ma se non fai così non ottieni niente. Gli abusivi storici siete italiani, mentre questi ultimi tutti stranieri. No, italiani non ce n'è più, tutti stranieri sono. E forse loro l'alloggio glielo danno, no? Le porte che vengono sfondate in genere sono già protette dall'ALER. Qui, a differenza degli altri cortili, c'è quello che diciamo gira e manda via gli stranieri, più che altro. Una persona normale che manda via le persone. Si è preso il compito di fare la ronda? Sì, messo d'accordo dagli altri, manda via gli stranieri, perché è già capitato. Questi altri racconti non solo su Milano, a Storiace, sempre della nostra Raffaella Calandra, che ringraziamo, alle 21:30 di sabato. Segnatevelo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America, America, shed his grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are coming on the air right now because ABC News can now project that Republicans will take control of the Senate. Beh, la notizia la conoscete, grande rivoluzione politica negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato nella notte americana quando abbiamo seguito da New York, dalla redazione, quello che stava capitando in queste elezioni del midterm. I repubblicani hanno riconquistato il Senato, è la prima volta in 8 anni, soprattutto hanno inflitto una dura umiliazione ai democratici e alla presidenza Obama. Vediamo i numeri: i repubblicani avevano 45 seggi al Senato, in minoranza contro i 55 dei democratici, adesso sono passati a 52 seggi, ma per dicembre forse ci sarà un altro risultato, potrebbero ancora aumentare. Hanno rafforzato le posizioni alla Camera, arrivando addirittura a 240 seggi contro i 226 della precedente legislatura, e anche lì a conti fatti su alcuni dei seggi ancora incerti. Pensate, se dovessero toccare i democratici quota 245, beh, avrebbero la maggioranza più vasta dai tempi di Truman. Ecco, c'è una cosa, devo dire, che mi colpisce dopo aver seguito nella notte queste elezioni, e cioè che l'America è stanca e preoccupata, ma è vitale nella sua espressione democratica.